Janine Davis Kimball. Non occorre scrivere una presentazione di Janine Davis Kimball, poiché si presenta da sola già nella prefazione del suo libro, di cui tra poco leggeremo un estratto. Abbiamo letto e studiato insieme l'opera di Maria Gimbutas e di Olga Caritidi e sentiamo la necessità di fare maggiore chiarezza sui Kurgan, come li battezzò Maria Gimbutas nel 1956. Kurgan è il nome che Maria diede alle sepolture dei popoli guerrieri della steppa russa che invasero l'Europa a partire dal VI millennio a.C. Ma Kurgan è divenuto poi anche il nome generico con cui si intendevano le diverse popolazioni nomadi di pastori e guerrieri, tra cui i Sauromati o i Sarmati. Rispetto all'idea che ci ha lasciato Maria Gimbutas di questa cultura patriarcale, di cui abbiamo letto proprio l'opera della stessa Maria Gimbutas, che si intitolava Kurgan, il lavoro e gli scavi di Janine Davis Kimball hanno portato alla luce, 40 anni dopo, evidenze sul ruolo delle donne che non collimano con quelle che ci ha lasciato Maria. Dunque, leggendo lo scritto di Janine, cercheremo di capire di più riguardo alle donne di potere Kurgan, come la sacerdotessa di Altai, scoperta nel 1999, di cui abbiamo parlato in uno speciale con Anastasia, figlia di Vera. Ne lasciamo il link in descrizione. In particolare, percepiamo importante evidenziare che ai Sarmati, una delle tribù Kurgan, apparteneva colui che nella leggenda è conosciuto come Artù di Camelot, un guerriero sarmata obbligato dai romani a servire nel loro esercito in Britannia contro i sassoni, questo quanto ci tramanda la storia. E ricordiamo la sorella di Artù, Morgana, di padre diverso ma figlia della stessa madre. Morgana, per molti versi, ci ricorderà durante la lettura queste sacerdotesse Kurgan di cui parla Janine. E che una popolazione Kurgan è quella dei Cimmeri, che ci collegano a una delle 12 sibille della tradizione più antica, la sibilla Cimmeria, appunto, donna di grande potere e influenza, come vedremo nell'apposito docuvideo di cui lasciamo il link in descrizione. E ora leggiamo alcune righe dalla prefazione del libro di Janine Davis Kimball, Donne guerriere. Scrive Janine di se stessa: «Ho iniziato a interessarmi ai popoli che vivono in terre lontane quando frequentavo le elementari, una curiosità che mi ha fatto percorrere vie e sentieri di luoghi remoti in Eurasia. Sebbene il mio lavoro si stesse svolgendo sottoterra, quel giorno di luglio del 1994 non riuscivo a staccare gli occhi dal cielo. La temperatura si aggirava attorno ai 38 gradi e i raggi di un sole implacabile tingevano il cielo di blu opaco. L'esperienza mi aveva insegnato che in quella parte di mondo il tempo cambia molto velocemente e per questo tenevo lo sguardo fisso verso est. Infatti, intorno alle 10 apparve all'orizzonte una macchia color carbone. Preannunciava l'arrivo delle veloci nubi pomeridiane che avrebbero scaricato sul terreno aspro e sabbioso una quantità d'acqua tale da costringerci a guadare pozze grandi come laghi per tornare al campo. In quanto archeologa dell'Università di Berkeley in California, dirigevo un gruppo di studiosi americani impegnati negli scavi di Kurgan e tumuli sepolcrali insieme all'equipe russa, al confine tra la Russia e il Kazakistan. La pioggia di quel giorno prometteva di fare danni ben peggiori che infradiciare semplicemente le nostre galosce. Se non ci fossimo sbrigati a mettere al riparo i ritrovamenti del Kurgan, diversi scheletri e oggetti di valore sarebbero stati danneggiati o andati persi. Il contenuto dell'ultima tomba era lo scheletro di una donna, in realtà di una ragazza morta a 13 o 14 anni, sepolto con una collezione ragguardevole di punte di freccia in bronzo racchiuse in una faretra, e quello che doveva essere stato un pugnale finemente lavorato a mano. Quel giorno d'estate aveva portato alla luce ciò che sarebbe stato il ritrovamento più significativo della mia vita, una serie di ossa e artefatti che avrebbe sovvertito le antiche nozioni sul ruolo delle donne nelle antiche società nomadi e dato credibilità alle storie diffuse in tutto il mondo sulle sacerdotesse e donne guerriere di grande potere. Sono nata nell'Idaho nel 1929 e ho scoperto la mia vocazione dopo 3 matrimoni, 6 figli e un curriculum vitae piuttosto variegato che include un periodo di lavoro come infermiera, un altro come amministratrice di un ospedale per convalescenti, insegnante di lingua inglese e sebbene avessi già un diploma in lingua e letteratura spagnola, riuscii a portare a termine i miei studi americani solo dopo che i miei figli erano cresciuti, conseguendo a 49 anni una laurea in storia dell'arte nell'Università di Stato della California. Cominciato il corso di specializzazione post laurea, mentre facevo l'inventario degli artefatti provenienti dal vicino Oriente per conto del Museo della Contea di Los Angeles, ero particolarmente attratta da placchette di bronzo e statuette di animali. Mi accorsi che il mio iniziale interesse per le città-stato e gli imperi della Mesopotamia, con le loro rigide gerarchie controllate da un gruppo esiguo di re e sacerdoti, andava scemando. Ero molto più attratta dallo stile di vita nomade dei loro vicini orientali, i nomadi eurasiatici che avevano creato le targhe e le statuette dal misterioso fascino. La storia delle steppe mi chiedeva sempre più pressantemente di visitare quelle terre, immense praterie che si estendono dai declivi boscosi dell'Ungheria ai campi lussureggianti della Manciuria, per poi raggiungere i confini meridionali della Siberia e arrampicarsi verso l'altopiano tibetano. Tagliate in due porzioni nette dai monti dell'Altai, si snodano per circa 9.000 chilometri. Il Volga, il Don, il Dnieper serpeggiano attraverso questi pascoli. Qui Attila l'Unno irruppe dalle montagne dell'est con le sue legioni di guerrieri a cavallo, depredando e massacrando le popolazioni che abitavano i confini delle grandi steppe, ed è qui che Gengis Khan costruì il suo immenso impero e suo nipote Kublai Khan regnò sulla raffinata ed erudita corte cinese che tanto attrasse Marco Polo. Tribù nomadi, inclusi i sauromati, le cui origini lo storico Erodoto faceva risalire alle Amazzoni. Come la maggior parte degli storici, anche contemporanei, Erodoto si concentrò sulle incursioni e sulle razzie di questi popoli, mentre il buonsenso a me diceva che la storia di queste società conteneva ben più di guerre, stupri e saccheggi. Con la mia laurea in mano mi imbarcai in un dottorato di ricerca sul vicino Oriente organizzato dall'Università di Berkeley in California. Diventavo sempre più scettica, continua Janine nella prefazione del suo libro, nei confronti delle interpretazioni date a quei ritrovamenti. Mi colpivano la trascuratezza e le spiegazioni approssimative con cui erano stati archiviati i dati, come la credenza, largamente diffusa, secondo la quale se una persona era stata sepolta con un'arma, allora doveva essere necessariamente di sesso maschile. La totale mancanza di interesse di molti storici e archeologi verso il ruolo della donna in quelle società mi frustrava. La scuola delle donne è lieta di offrirvi alcune pagine scelte da Donne guerriere di Janine Davis Kimball, traduzione di Elisa Martini, Venexia Editore. Da Devana, buon ascolto.